America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, elezioni, caucus dell'Iowa, ha vinto Mitt Romney per 8 voti, è stata forse la battaglia, anzi senza forse, è stata la battaglia più combattuta nella storia elettorale dell'Iowa. Pensate che la differenza dei voti è 30.015 voti a favore di Mitt Romney, 30.007 voti a favore della nuova star Rick Santorum, un candidato che durante tutta la campagna elettorale non era riuscito ad emergere, non aveva fatto molto bene nei dibattiti elettorali e improvvisamente, venendo fuori dal nulla ieri, non soltanto ha rischiato di vincere, ma di fatto è stato il vincitore morale grazie a un discorso straordinario che ha colpito l'immaginazione degli americani. He came by himself, even though he was married with two children, one of them being my father. He came after having fought in World War I, because Mussolini had been in power now 3 years, and he had figured out that fascism was something that would crush his spirit and his freedom, and give his children something less than he wanted for them. Avete sentito l'emozione di questo discorso, la voce tremante di Santorum, la sorpresa di questo risultato per lui stesso, il ricordo del nonno minatore, un nonno italiano che scappò dall'Italia fascista nel 1925 e fece il minatore di carbone in America, lavorò fino a 72 anni, un discorso, devo dire, davvero sentito. Se Mitt Romney ha la macchina elettorale per correre, ormai si sta dicendo quello, che la macchina di Mitt Romney è straordinaria, perché in Iowa, dove sembrava che dovesse perdere, è riuscito comunque a vincere. Dicevo, se Romney ha la macchina, Santorum ha l'anima, e in questi tempi ci vuole l'anima, perché poi la macchina si può costruire. Sentiamo Romney. No sanctions of a severe nature, the crippling sanctions put in place. The president was silent when dissident voices took to the streets in Iran. And of course, he hasn't prepared the military options that would present credibly our ability to take out the threat that would be presented by Iran. He's failed on that. And then how about with regards to the economy? Tono molto diverso quello di Mitt Romney, un tono presidenziale. Non sappiamo ancora quale sarà il risultato, ha detto, ma voglio fare le mie congratulazioni a Rick Santorum. È senz'altro una grande, importante vittoria per lui. Dopodiché si è dedicato esclusivamente a Barack Obama, come se il resto della campagna non contasse davvero. Ma devo dire, è stato un discorso piuttosto meccanico, non ispirato dai quei toni emotivi di cui vi parlavo prima, contenuti in questa rivelazione di Rick Santorum. Ecco, c'è un particolare: l'Iowa colpisce di nuovo. L'Iowa che 4 anni fa rivelò il personaggio Barack Obama, quest'anno rivela il personaggio Santorum. In qualche modo si è creata una piccola coalizione fra i candidati della destra repubblicana, che non amano, devo dire, Mitt Romney, e sicuramente, soprattutto per quello che ha detto Newt Gingrich, che invece ha perso, ha fatto un discorso poi arrabbiato, un discorso risentito nei confronti di Romney, e ha promesso solidarietà nei confronti di Santorum, che ha detto ha vinto in modo pulito, senza fare una campagna negativa. Nel momento in cui Santorum dovesse confermare, e sono certo che andrà molto avanti a questo punto, di essere un candidato di punta, beh, gli altri finiranno per coalizzarsi attorno a lui. Altra notizia di ieri: Rick Perry, il governatore del Texas, ha annunciato che tornerà a casa per riflettere, di fatto un annuncio di dimissioni. Ma ecco, abbiamo in linea con noi da Des Moines in Iowa Christian Rocca, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Christian. Buongiorno. Allora, intanto una nottata, devo dire, così, con l'otto volante, notte in bianco per tutti. Ma non solo con l'otto volante, c'era questo bar qui al Marriott di Des Moines, la capitale dell'Iowa, che è stato soprannominato dai giornalisti di tutto il mondo, di fatto, come il bar di guerre stellari. Eravamo tutti lì in attesa del conteggio, dell'ultimo voto, dell'ultima scheda che si era persa nel centro dell'Iowa, e poi alla fine è arrivato il risultato e sì, abbiamo passato la notte in bianco. Ecco Christian, dal bar delle guerre stellari al New Hampshire c'è stata in fondo una doppia vittoria di Santorum, in qualche modo un grande discorso accompagnato da un risultato elettorale inaspettato. Avrà una coda in New Hampshire? Beh certo, oggi il candidato anti-Romney, candidato della destra sociale, della destra religiosa, degli evangelici, che sono molto importanti dentro il Partito Repubblicano, è ovviamente lui, è Rick Santorum. Avrà il problema in questo momento di crearsi un'organizzazione in tutti gli Stati Uniti, dove si voteranno per le primarie, per gli altri caucus, a cominciare dal New Hampshire, dove si vota martedì, e soprattutto dovrà cominciare a raccogliere fondi che in questo momento non ha e che è oggettivamente una sua debolezza nei confronti della macchina ben oliata di Mitt Romney. Grazie Christian. Abbiamo anche in linea Daniela Roveda, corrispondente da Los Angeles, anche lei inviata in questo momento del nostro giornale a Des Moines. Buongiorno Daniela. Buongiorno Mario. Allora, una nottata in bianco anche per te, immagino, visto che siamo qua. Sì, è diventato subito chiaro che Santorum sarebbe stato protagonista delle elezioni in Iowa, un candidato che è partito un mese fa con il 5% nei sondaggi ed è riuscito ad arrivare alla pari al 25% con Romney, un candidato che in realtà fa la campagna elettorale in Iowa da 4 anni. Ecco, so che lui è stato il primo a vedere tutte 99 le contee dell'Iowa. Secondo te un personaggio alla Obama che è venuto fuori ieri notte? Beh, un personaggio sicuramente che ha un grande comunicatore come lo è Obama, e è un personaggio che riesce a entusiasmare la folla nei suoi comizi, come riusciva a fare Obama. E come Obama ha fatto una campagna elettorale a tappeto, passando da una provincia all'altra in modo metodico e sistematico, e in questo modo ha conquistato l'elettorato. Ecco, la storia si ripete perché Obama conquistò l'elettorato e di fatto si scatenò contro l'establishment rappresentato da Hillary Clinton. A questo punto la partita si sposta in New Hampshire e dunque avremo secondo te la stessa dinamica? Il candidato povero contro l'establishment? Come andrà a finire secondo te? Beh, sarà secondo me più difficile in New Hampshire, dove Romney ha una campagna elettorale molto forte e ben organizzata. Santorum tutto sommato è un fenomeno recente, è venuto a galla soltanto un mese fa, e Romney in New Hampshire potrà probabilmente veleggiare verso una facile vittoria. L'appuntamento importante sarà invece quello della South Carolina e la settimana dopo a fine gennaio in Florida, due stati dove la destra religiosa e conservatrice è forte e dove Santorum potrebbe dare del filo da torcere a Romney. Descrivici, so che tu sei stata in uno di questi caucus, descrivici che cosa hai vissuto ieri dentro questo caucus. Il caucus che ho visto io era in una scuola elementare, tutti i partecipanti erano seduti a dei piccoli banchi di scuola e a ognuno viene dato un bigliettino, un fogliettino strappato da un quaderno su cui si scrive il nome del candidato per cui si vuole votare, dopodiché passa un signore a raccogliere i bigliettini come nell'elezione del capoclasse alle scuole elementari, e poi vengono conteggiati i voti e annunciati alla fine di questa assemblea. Tutto si svolge nel giro di 3/4 d'ora al massimo e i risultati vengono comunicati per telefono alla sede centrale del Partito Repubblicano dell'Iowa. Ecco, tu tra l'altro nella tua visita in Iowa hai fatto anche una scoperta, e cioè di un imprenditore americano che ha imparato a fare il prosciutto a Parma e adesso fa il prosciutto in Iowa. Ma raccontaci questa storia. Una storia molto divertente e interessante di questo signore che si chiama Herb Eckhouse, che arrivò a Parma negli anni 80 per vendere sementi di grano turco agli agricoltori dell'Emilia Romagna, e lì si innamorò della cucina italiana, della tradizione gastronomica italiana. Al ritorno in Iowa decise di fare il prosciutto come si fa a Parma, e a detta sua e di molti critici gastronomici e chef americani il suo prosciutto e anzi migliore del prosciutto di Parma che facciamo noi. E Daniela, ma e allora questo signore è andato a votare ai caucus? No, non c'è andato perché non è repubblicano, è un democratico e ha già deciso che voterà per Obama. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. All'età di 69 anni, Aretha Franklin ha annunciato il suo matrimonio con Willie Wilkinson. La coppia si sposerà quest'estate a Miami Beach. Scherzando con i giornalisti ha detto: no, non sono incinta. The Aretha Franklin, baby, I love you. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.